vabbè, insomma. Vabbè, allora, quindi qualcuno c'è sempre qua in frequenza. Vabbè, non c'è qualcuno sotto me. Faccio mezzo passaggio. Sì, sì. Oggi si è bruciato una macchina a te. Ma hai voglia di parlare oppure spiego tutto e me ne vado quella che mi guarda la TV? Beh, divertiti, ciao. Qualcuno ne ascolta?